Lei sembra onesta nella sua purezza, viene dalla polvere, ma brilla di luce. Lei mi guarda come la guarderei, se non volessi altro che lei, ed è così. È capace di farmi volare, è capace di farmi cadere. Fiorire, inverno fiorire, inverno fiorire. Lei sostiene il mio sguardo con fare sicuro. Lei a volte è fragile come il più prezioso. Fiorire, inferno fiorire, inferno fiorire.